Siamo in missione per conto di Dio. Mattino di Luca Telese. Però adesso anche cioè è 20 giorni che si parla della famosa leccata di 20 anni fa di Asia Agenda. Renata Polverini al telefono. Buongiorno Renata. Buongiorno a tutte. Non iniziamo a raccontare palle. Non era nella richiesta. Qui non c'è nessuna palla. Non essere offensivo, perché non era nella richiesta. Oh mamma mia santa. Ma allora qua non ci si intende sulla Costituzione. Si rischia anche un effetto opposto, quello della caccia agli streghi. Sembra incredibile, ma è così. Hai detto incredibile? Sì, perché non ti voglio far sentire solo tutte le volte che sento pagina. Io non ho mai molestato nessuno, lo giuro, non ho mai neanche, io non sono accusabile di molestie sessuali, al massimo di modestie sessuali. Io non sono polemico, io faccio l'osservazione. Su questo prestarmi. Sei in onda, Senan. Non usiamo, Pietro, ti abbiamo salutato, non usiamo per comunicazioni serviziose. Penso che le regioni o sono tutte ordinarie o sono tutte speciali. Telese studia, professor Giannino, rimandi l'alunno a settembre. Qui siamo cult, eh? No, no, non ti ci mettere pure tu. Noi siamo Anna Frank perché nulla ci sembra più bello di accostare qualcuno a questa bambina che ha immaginato la speranza nell'olocausto. Reach out and touch me. Popolo dei già svegli, buongiorno, ed è una giornata ancora una volta intensa e piena di cose. Esplode, deflagra la bomba di Anna Frank dall'Italia, da un piccolo adesivo in curva nord nel mondo, interviene il centro Wiesenthal, chiunque si immaginano sanzioni, la Lazio prende provvedimenti estremi, sentiremo, spero, Lotito fra poco, e dice porto 200 tifosi ad Auschwitz. Ma poi le facce bendate contro il Rosatellum al Senato, i volti bendati e le grida vergogna vergogna da parte dei 5 Stelle della sinistra. Ma poi la cronaca con l'orribile storia del mobbing contro il ragazzo Down, ma con tante speranze che poi continuano a uscire da queste storie, come il messaggio positivo del tredicenne, del ragazzo che ha difeso il bambino molestato. E allora eccoci qui con Giuseppe Caporale, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. E chi altro abbiamo? Aurora Lussana, eccola. E da Lombardo Veneto un caro saluto a te Luca e agli amici di Radio 24. Ti senti più autonoma oggi? Hai uno statuto speciale? Ma sai, qua nel Lombardo Veneto è connaturato in noi, è ontologico, è dentro di noi. Quindi tu buongiorno, buonasera, come sta lo statuto speciale? Bene, sì, sono la Lussana. Una meraviglia qua. Dai, quanto è stata l'affluenza nel tuo seggio? Io sono di Cantù, Alta Brianza, Comasca, diciamo così. E quindi? Una meraviglia, siamo su 40%. Un po' fiacchini, fiacchini, il Veneto vi ha stracciato. Poi sai che io sono di origine bergamasca, quindi dentro di me c'è comunque questo ricordo della terra di San Marco, della Serenissima, ovvio, i nostri amati veneti, il Doge, Zaia. Ma non è andato il tuo Trisavolo quando c'era la Serenissima? Che stiamo dicendo? Guarda, abbiamo fatto ricchi tutti, anche l'impero austro-ungarico. Lo sai cosa diceva Carlo Cattaneo di noi del Lombardo-Veneto? Mm-hmm. Che anche se siamo un ottavo della popolazione di tutto l'impero austro-ungarico, portiamo un terzo delle risorse e quindi è all'impero austro-ungarico il regno del Lombardo-Veneto, faceva tanto comodo, portava tanti soldini, ti ricorda qualcosa? Giuseppe Caporale viene dal regno di Pescara, no? Bello. E come ti senti? Autonomo, non autonomo? tartassato, contribuente. Autonomo ma non indipendente. Polemica. Va bene, e sappiate che l'altra grande notizia del giorno sono le pensioni. Non arriveremo mai in pensione. Dopo vi faccio vedere che con questi ultimi calcoli ci sono due perle oggi. Sale continuamente l'aspettativa di vita, quindi sale l'età pensionabile. Chi è nato più o meno nel 70 arriverà alla pensione più, ai tempi del prossimo Blade Runner. Ma c'è un'altra cosa incredibile, una sentenza. Tu stai zitta, Aurora, tu niente pensione, neanche nel Lombardo-Veneto, chiaro? Né in Italia, né nel Lombardo-Veneto. No, guarda che si potrà integrare le pensioni dell'INPS con un fondo del Pirellone, sì, uno dei progetti del Maroni bello. Per la Lombarda dell'autonomia. Il Pirellone integrativo. Bravo, sì. Vedi che le sai tutte le robe. Welfare anche locale dalla Suburra romana. Dalla Suburra, si dice con due B. Allora dicevo, l'altra cosa incredibile è che la Corte Costituzionale aveva detto: ragazzi, bisogna restituire un po' di soldi ai pensionati perché ne avete presi troppi. E qui è scattata l'altolà: no, non possiamo, nella legge di stabilità diamogli il 10%, il 20%. Ancora non si è capito come verranno rimborsati i pensionati che, ripeto, secondo la Corte Costituzionale dovevano riavere indietro parte dei soldi che gli erano stati prelevati. Allora, tante cose, ma ancora una volta bisogna partire dal fritto misto. Finalmente c'è il clima distensivo tra PD ed MDP. Speranza, hai visto, ha invitato Renzi a pranzo. Renzi si è seduto a tavola, però prima di mangiare ha fatto assaggiare tutto ad Orfini. Forse non si fidava, forse questa fiducia non è completamente... È un grande gnocchi, vero? L'assaggiatore, Orfini assaggiatore di Renzi. Che dici, Giuseppe? Assolutamente, assolutamente. Romani sulla possibilità del voto di fiducia al governo. Studieremo i numeri, noi faremo in modo che la legge venga approvata, però lo faremo alla luce del sole, senza zone d'ombre, senza ambiguità. Ricordo che al Senato purtroppo non c'è il voto sul provvedimento alla fine come alla Camera, della quale la Camera, Forza Italia, ha votato favorevolmente la legge. Quindi l'aiutino sulla fiducia arriva da capogruppo di Forza Italia e anche dai verdiniani, che sono molto contenti, in 13 con uno infortunato, ma sono lì a garantire il numero legale. Ancora gnocchi, che dice lui di aver visto in anteprima il film che ha fatto incazzare Berlusconi. Ho visto in anteprima il film di Sorrentino su Berlusconi. Mi è rimasta impressa questa scena bellissima. C'è Berlusconi nel suo parco immenso di Arcore, cammina da solo, vede un bastone sul prato, lo prende, lo lancia e poi si vede Renzi che lo va a prendere e glielo riporta. Una cosa, guarda, è meraviglia, una scena meravigliosa. Beh, era in forma, era ispirato il nostro gene. Sentite, Renzi, ci tocca fare quello che Berlusconi promette. 1 milione di posti di lavoro l'ha detto e l'abbiamo fatto noi. L'articolo 18 l'ha detto e l'abbiamo fatto noi. L'IMU prima casa l'ha detto e l'abbiamo fatto noi. Io sono sempre terrorizzato quando Berlusconi apre bocca, perché poi lui la promette, la spara e noi tocca realizzarla. E quindi sono preoccupatissimo da questo punto di vista. Preoccupatissimo. Di Battista interviene su Anna Frank, credo a carta bianca, e spiega perché serve lo Stato sociale. Sono tifoso, mi piace andare in curva, mi faccio pure, mi pago io il biglietto. Sono 20 anni, 30 anni che sento cori razzisti da parte di tutti. Qua un'unica cosa occorre fare: costoro non devono più entrare negli stadi. Poi certo, se sono ragazzini di 13 anni, lì si apre tutto un altro discorso. E ritengo che il primo modo per sconfiggere l'intolleranza sia da un lato l'istruzione, ma poi la ricostruzione di uno stato sociale che si sta perdendo. Aurora, si è discusso troppo poco di Anna Frank, perché Mihajlovic, l'allenatore del Torino, dice: ma chi è? Non conosco questa storia. Sì, no, allora, a parte che come sempre questa bambina vince sul male o la banalità del male della nostra contemporaneità, perché ha vinto ancora lei con questo volto, questo sorriso. Detto questo, sì, non è che c'è l'emergenza democratica o l'antisemitismo in Italia perché 4 squilibrati si sono inventati questo fotomontaggio. Cioè, voglio dire, adesso su una curva di tanta gente come la curva della Lazio, ripeto, 4 squilibrati ci stanno. Ma sì, vabbè, 4 ragazze che poverici, neanche uno di 13 anni, che voglio dire, vabbè, squilibrati da emarginare e da punire se si trovano, finita lì, basta. Ma non è che l'Italia è un paese antisemita, ma ci mancherebbe altro, dai. Stefano ci scrive. Un po' la sinistra, un po' antisemita, un po' anti-Israele di solito. Senti, però, Stefano ci scrive da romano di padre bergamasco. Hanno ragione i Lombard. Oh, va che bravo. 349-238-6666. Giuseppe, sul caso Anna Frank. Beh, l'ignoranza genera mostri, è stata una mostruosità quello che è avvenuto, però sicuramente se ne sta parlando troppo, come forse troppo si è parlato del caso di Asia Argento. Diciamo sostanzialmente che c'è una reazione eccessiva alle vicende, diciamo così, che oggi la pubblica opinione racconta. Era un adesivo, è stata una vergogna, bene ha fatto il presidente della Lazio a dissociarsi, bene ha fatto ieri a invitare tantissimi tifosi della Lazio per una serie di visite ad Auschwitz, però anche basta. Allora, Mara Venier racconta del tradimento di Jerry Calà. Un giorno abbiamo detto andiamo a fare un viaggio, ci sposiamo a Las Vegas, almeno lì cotta e magnata, come si dice a Roma, non facciamo in tempo a litigare. Ritorniamo in Italia, vengono tutti i nostri amici, da Diego Batantuono, insomma tutto il gruppo nostro, e io alle 2 di notte non lo vedo, dov'è? Tutti quanti in festa, Renato Zero che canta, dov'è? Ma Jerry dov'è? Prendo, vado giù nei bagni e lo trovo con una. Gli ho dato tante di quelle mazzate a lui e a lei. A lui e a lei. E poi ho detto basta, annulliamo il matrimonio. Raccontate tutto, eh? Nina Moric punta al Parlamento, come sapete, con le insegne e i vessilli di Casa Pound. Se l'ha fatto Razzi, posso farlo anche io. E con questo ho detto tutto. E dove ti piacerebbe lavorare? Sicuramente non andrei fino alla Corea del Nord, però rimarrei ai paraggi. Anche spiritosa, Nina, faceva la campagna a Ostia, dove, attenzione, potrebbe arrivare un risultato simbolicamente importante, perché i sondaggi dicono che il candidato sacerdote della Caritas e il candidato di Casa Pound, i due estremi, stanno raccogliendo molti consensi. I neonazisti, intanto, quelli di Forza Nuova, ci stanno in Italia organizzati, adesivi o non adesivi, confermano per la terza volta dopo cambi, batti e ribatti la marcia del 28 ottobre. Saremo presenti il 28 ottobre non per fare una passeggiata, bensì per combattere d'impatto uno Stato che ci vorrebbe morti e ci ha emarginato già da molto tempo. Quindi ci vediamo il 28 ottobre a tutti i camerati che ci vogliono seguire, ci vogliono appoggiare. Questo è quanto. Foglia che molla. E questo era Simone Crescenzi di Rivolta Nazionale, una costola di quell'arcipelago che dice noi ci saremo e parteciperemo a questa manifestazione. Ma la domanda è, ma se si è fatta questa ira di Dio per l'adesivo di Anna Frank, che si deve fare per quelli che vogliono fare la marcia su Roma? Giuseppe? Beh, sostanzialmente l'abbiamo raccontato anche su Tiscali.it in questi giorni, sicuramente la marcia non si deve fare, questa marcia è un bruttissimo messaggio, sicuramente è stata già vietata dalla prefettura, si è intervenuto il capo della polizia, questo è un problema serio e pericoloso su cui bisogna prendere una posizione forte. E il buon Simone parlava avendo sullo sfondo una bandiera con la svastica tenuta da 2 militanti incappucciati addirittura, questo è il nostro simbolo e noi non lo rinneghiamo, Ale! Buffon alla premiazione e combatte come tanti noi italiani con l'inglese. Vai eroico Gigi, vai. I think that I have to speak in English, but okay, no problem. No, I won't try to speak. Yeah. No, for me it's a great honor to receive this award at my age, but it wasn't enough to win in Europe. Eroico Gigi! Aurora, il tuo inglese è a questi livelli o il lombardo veneto comporta anche delle con le lingue internazionali? No, il mio inglese inglese ha questa cadenza aerobica, quindi come sempre, ma anche quando facevo le traduzioni dal latino al greco c'è il solito problema, c'è questo accento bergamasco che viene sempre fuori. Comunque no, sulla marcia di Roma lì, qui, no scusa, non ho, mi sono persa un giro perché se le robe di Roma per me è politica. Ma gliela fan fare o non gliela fan fare a sti ragazzi qua al 28? No, non abbiamo capito, però la mia posizione è... Se sono così, se voglio andare, fategliela fare, perché sono così ridicoli che fargliela fare, guarda, con le svastiche, la testa incappucciata. Questi sono come i nazisti dell'Illinois, non ci fanno paura. Ma chi che c'ha paura di sti qua? Comunque, era mica l'anniversario di Caporetto della rivoluzione. Sì, sono i 100 anni di Caporetto, li stiamo celebrando qui, perché è una grande battaglia nazionale. Ora so che non ti riguarda del tutto, però mio nonno era lì. No, pensavo che celebravi... Ah, ma dai, che bella storia allora, la tua famiglia. Sì, perché mio nonno ha combattuto nel nord, per il nord e per l'Italia, vedi? Vedi, no, che bella storia della famiglia. Però era mica anche la celebrazione, pensavo che ti interessassi più la rivoluzione d'ottobre. Comunque, no, quello ci ha pensato Tronti, è stata una celebrazione surreale, la ricorda Cazzullo in un bel pezzo sul Corriere della Sera. Vabbè, comunque a me piace anche la battaglia di Vienna, vabbè, andiamo avanti con... Vai, la battaglia di Vienna, dai. No, okay. Io Giuseppe, la tua battaglia... La tua battaglia qua, Caporetto, Vienna, qual è? Tutti i giorni sul fronte delle notizie e del racconto quotidiano. Vabbè, questo è veramente... Strade, torniamo subito dopo con questa manica di pazzi. Facciamo un avvertimento sindacale, è immorale alzarsi a quest'ora. Mattino. Già svegli. Sono sveglio dalle 3:15 perché ho accompagnato mio figlio a lavorare, che iniziava presto anche lui questa mattina. Poi sono tornato a casa, ho fatto colazione e sono ripartito per andare a lavorare. Riguardo a questo referendum che c'è stato in Lombardia e nel Veneto, noi non vogliamo diventare ricchi, noi vogliamo esclusivamente non essere più dei morti di fame. Fategli fare tutti i referendum che vogliono, sti cazzo di settentrionale. Anch'io, come la maggior parte di quelli che sono sveglio in quest'ora, sono sveglio per andare al lavoro, ma avevo una domanda per Luca. Allora, la mattina, o c'è il fritto misto o il bollito? Perché sentiamo il fritto misto, cosa bolle in pentola? Deciditi, o è fritto o è bollito, Luca. Sono già sveglio perché mi aspettano 140 km di autostrada prima di arrivare in ufficio al lavoro. Però non viaggio mai da solo perché mi accompagna sempre il pensiero della donna che amo. Purtroppo lei non mi ama, però non importa, è bello lo stesso. C'era anche la suspense, e però voglio dire una cosa, non vi è contraddizione. Perché può esserci il fritto dentro l'olio, può essere una specie di bourguignon. Noi siamo raffinati qui. Giuseppe. Bellissimo, bellissimo questo, insomma, l'Italia degli, no, che racconta il primo mattino, è un'Italia bellissima, l'Italia che lavora, l'Italia che produce, l'Italia che... Eppure tu sei sveglio prestista. Sì, devo dire, questa mattina, per esempio, qui, insomma, nei dintorni, ho fatto qualche difficoltà a trovare un bar aperto, no? Quindi c'è un'Italia a due... credo sei uscito alle 5. C'è un'Italia un po' a due velocità, no? A due velocità. C'è un'Italia che cammina, è un'Italia forse che, insomma, così, che se la prende un po' più comoda. Ecco, a me piace più la prima, sinceramente. Vai. Aurora, c'è il baretto lì? Ma qua Cantù trovi bar da... Aperti? Certo, ma... A che ora aprono i bar? Ma fanno il non stop, ma... A parte che apri davanti al panettiere, che voglio dire adesso... No, Aurora Lussana afferma che a Cantù c'è già il baretto aperto. Ma qui dalla regia forti segni di scetticismo. Ma quale è? Ma chi c'è a Cantù alle 5 del mattino al bar? Dai. Ma è una città che non dorme mai, Cantù. Ma ci sei mai stato a Cantù? Allora, sì, ci sono stato, ma se c'è un barista di Cantù sveglio che chiami ora, subito. Non lo quelli che vanno giù a Milano a lavorare o su in Svizzera, ma io non lo so, ma vieni a Cantù una mattina, a parte che c'è la mostra del merletto, del pizzo, ma vieni in giro che vedi una città splendida, poi c'è un sindaco della Lega, quindi una città meravigliosa. Cioè, e va vista alle 4 del mattino con i bar, girando per i bar. È splendida questa città, poi è piena di bei ragazzi, delle ragazze. Vieni a fare un giro che vedi la Lombardia che lavora. Allora, una cosa seria, sì, devo dire, ti hai parlato del fritto misto, quello là del bollito, a me ricorda la polenta uncia invece la tua trasmissione. Ah, bello, grazie. Spettacolare la polenta uncia. Ah sì? Perché qual è la caratteristica? La polenta uncia in vita tua? No, la polenta sì, ma uncia no. Com'è? Quella tipica comasca, con tanto burro e l'aglio e la salvia. È annegata proprio nel burro, che sai, noi siamo la città del burro, come diceva Gianfranco Miglio, o dell'olio. Pesantina, no? Ma va, meravigliosa. Rinasci dopo la polenta uccia. Ah, bene. Allora voglio venire a provarla, perché questa è un'esperienza veramente mistica del profondo nord. E le pensioni, è una cosa seria? È normale, giusto? Oscar sicuramente fra qualche minuto dirà che è stranormale ed è anzi auspicabile che ogni volta che cresce l'aspettativa di vita cresce anche l'età pensionabile, oltre agli scatti che sono già programmati. E chi vuole cominciare? Giuseppe? Beh, è un effetto, diciamo, della legge Fornero. È un effetto automatico della legge Fornero, che ovviamente introduce un tema drammatico, perché questo di andare in pensione così tardi può valere per alcune professioni, per alcuni lavori, non certo per tutti i lavori. Abbiamo tante volte parlato dei lavori usuranti, di quanto sia impossibile oggi come oggi immaginare a 67 anni la pensione per lavori che sono obiettivamente troppo faticosi, troppo usuranti e troppo, come dire, che Aurora, incidono troppo sulla vita delle persone. Senza dubbio. Aurora, ti do un dato che mi sono segnato dopo per il corpo a corpo con Oscar, che è stupefacente. Cioè, in Italia le donne che hanno, anzi le persone che hanno l'aspettativa più alta sono in Trentino, sono le donne, vivono mediamente per 86,1 anni e vivono mediamente 2,7 anni in più della Campania. Questa è un'importante differenza, no? Perché quella sulla vita è la differenza più grande che racconta la diversità dell'Italia. Te lo immaginavi che fosse così alto il divario? 2,7 anni è tanto, Tanto, sì, come media. Sì, no, probabilmente anche in Trentino fanno ricorso alla polenta che uncia. E poi c'hanno una grande autonomia le due province di Trento e Bolzano, quindi voglio dire, vedi che l'autonomia fa molto bene anche alla salute. Però scusa, no, faccio una piccola osservazione: la prima roba che fa se la Lega vince le elezioni l'anno prossimo è abolire la legge Fornero. Tutta? Oh, vai, mi unisco. Qui vedi, track. Senti, come se l'avessi evocato, è arrivato questo messaggio di Max. Sono di Cantù, sono già al lavoro e i bar sono aperti fin dalle 5. Ci fermiamo e torniamo subito dopo. GR, Strada in diretta, ciao. Babbaleo, impara a parlare e impara la grammatica prima di leggere i giornali.